Ripetiamo, quale di questi seguenti animali è ermafrodita? Tenia, talpa, bacco. La tenia è il verme solitario, quindi insomma la soluzione era lì: se sei solitario ti deve raggiare da solo.